24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Le 6:34 minuti, siamo qui, cari ascoltatori, buongiorno e ben ritrovati con 24 mattino in diretta fino alle 9, come di consueto. Siamo pronti con Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia e il nostro consiglione. But please relax. Che vale sempre, varrà sempre di più fino al 25 febbraio. Cos'è quel giorno lì che si vota, il 25 febbraio? E, allora, siamo pronti ad aprire il nostro bar con Nicole Minetti che offre il caffè? Sempre lei? Il caffè. Bar condicio, avete finito di rompere le palle con la Minetti, per la Minetti, sempre la Minetti, non sapete parlare d'altro, andate a lavorare, pelandroni. Vabbè. Allora, voglio salutare Alessandro Giglioli, buongiorno. Buongiorno. Piovono rane, Alessandro Giglioli. Torna con noi, allora, ci sarà da parlare ovviamente di candidati, candidature e di tutte queste cose. Per il momento sei solo nel nostro bar, Alessandro, sappi, sei unico. L'unico a tenerti compagnia, si vede che l'altro ospite sta ancora dormendo, di la verità. Sì, c'è il nostro Mario, ma c'è Mario non Di Nolfi. Non riuscito a tirarlo su dal letto. Stiamo cercando di sbrandarlo, Mario Di Nolfi, ma dove è finito Mario Di Nolfi? Adesso che non è più candidato non si alza più dal letto. Si sveglia in maniera sobria, è montiano, è diventato montiano e quindi arriva con calma, con sobrietà, eccetera. Vediamo un po'. Allora, ovviamente ci sarà da parlare di Nicola Cosentino, noi ne parleremo anche alle 8:30 più approfonditamente, perché certamente è l'uomo del giorno. Sono state chiuse le liste ieri alle 20. Io però, Alessandro, ti vorrei far sentire, tu conosci una tale Iliana Calabro? Ne hai sentito parlare? No, sono spiacente. No, ma come no? Iliana Calabro. Allora, Iliana Calabro è argentina. Nel momento in cui su internet candidata italiana all'estero. E nel momento in cui dico argentina, tu mi sei scattato. Perché la candidata argentina ieri è stato un piccolo culto, dai. Allora non bruciarcelo, dai, che vogliamo farlo sentire anche noi. Però c'è un mistero, perché io non ho capito. Poi magari ti chiedo consigli. Oggi vedo tutti i candidati del Popolo della Libertà e non la vedo candidata, ma forse è il candidato numero uno all'estero, sono altri, ma ci sono le liste anche lì, no? Ci saranno le liste, immagino, anche sì, all'estero. Ci sono le preferenze. Ci sono anche le preferenze. Allora, Iliana Calabro, candidata per il Popolo della Libertà, subretta argentina, star della TV, e fin qui, voglio dire, no, nessuna novità, cioè nel senso, non è che sarebbe una novità. Celebre però perché in una puntata di un programma televisivo argentino molto molto famoso, che t'ha fatto Alessandro? Che t'ha fatto? Ha simulato ha simulato un orgasmo. Eccola. Tira la cara. Possibile senatrice della Repubblica Italiana, eccola qua Alessandro Giglioli. Ma Alessandro, tu metti queste cose qua, c'è qualcuno con la radio a volume acceso alta e magari il vicino di casa capisce qualcosa di sbagliato. No, infatti, oppure non lo so, comunque questo ha fatto, chiaramente si discuteva di questo, si discuteva della famosa scena del film in cui credo chi, Meg Ryan, no? Nel famoso film, e allora vabbè, parliamo di cose più serie. Ha fatto bene, secondo te, il Popolo della Libertà a tenere fuori Nicola Cosentino? Perché qui ci si divide tra giustizialisti e garantisti, invece. Ma guarda, io sono molto contento, pur essendo un elettore di sinistra, quindi dovrei essere contento se il PDL si carica di impresentabili. Invece sono contento in generale perché forse, lo dico tre volte, il voto di opinione in Italia comincia a contare un filo di più del voto clientelare, del voto di scambio, del voto di rete. Cioè perfino il PDL, perfino Berlusconi si è accorto che alla fine, mettendo in lista i Cosentino piuttosto che altri dell'Utri, Si perdono più voti di quelli che si guadagna. Questa è la notizia vera. Sì, questo appare, effettivamente c'è subito sul Corriere della Sera un sondaggio di Alessandra Ghisleri, la sondaggista preferita da Berlusconi, quella che dà tutti i sondaggi molto molto freschi a Silvio Berlusconi, che dice l'80% degli italiani vuole gente pulita, cioè gente pulita nel senso gente senza problemi con la giustizia, vuole davvero questo tipo di cambiamento. Allora, da questo punto di vista è una novità. Cioè, come dici tu, Cosentino portava 30.000 voti, questo è il bacino di voti che viene considerato appannaggio di Nicola Cosentino. E però rinunciare a questi voti o a parte di questi voti è un segnale... È una piccola... Guarda, è il segno, se posso dirlo a quest'ora di mattina, che le vere rivoluzioni in questo paese avvengono prima, devono avvenire prima nel paese, fra i cittadini, e poi la politica, che non è né meglio né peggio dei suoi cittadini, io non sono fra quelli che pensano che la politica sia peggio, penso che la rifletta, però in qualche modo prima le rivoluzioni devono avvenire nei cittadini, tra di noi, dobbiamo cambiare noi, e poi cambia la politica. Sì. In questi anni un pochino siamo cambiati, evidentemente il voto d'opinione supera il voto di scambio, e cacchiarola, i partiti hanno dovuto prenderne atto, il PDL, ma anche il PD, quando ha fatto fuori Crisa Fulli, ha dovuto prenderne atto. Questa è la vera rivoluzione che è successa. Noi siamo pieni di notizie negative, ma questa è una notizia positiva, vale per il PD, vale per il PDL. Sì, tra l'altro tutti reso conto, e poi li leggeremo in rassegna stampa, parlano di un Berlusconi anche a tratti affranto nel dover comunicare a Nicola Cosentino, come dire, ci danno se no dei, questa è una retroscena sui vari giornali, ci danno dei camorristi se noi ti mettiamo in lista, perché... ma permettermi subito, tu che hai le agenzie sotto mano, io sono a casa, ma Scilipoti e Razzi... Certo che ce l'hanno fatta, Scilipoti, però attenzione, Scilipoti è stato messo, credo, al quarto posto in Calabria e quindi è a rischio di non essere eletto, e Razzi anche lui è stato messo, sì comunque sono stati messi, come no, come è stato messo, hanno ritirato il cambialone, diciamo, sì come è entrato anche un altro, ma lo facciamo sentire tra poco. Prima però Nicola Cosentino ieri, Piazza Pulita, e Corrado Formigli ha sguinzagliato uno dei suoi giornalisti a inseguire Nicola Cosentino prima della esclusione dalle liste. Guardate un po', all'inizio Cosentino risponde, poi si infastidisce pure. Ci sono alcuni pubblici ministeri che ritengono che io abbia preso voti da parte delle organizzazioni criminali denominata Casalesi. Allora io vorrei essere spiegato da questi, com'è possibile che in un sistema elettorale io vorrei essere spiegato, e questo lo sto chiedendo ai giudici ai quali mi sono rivolto. E ho chiesto il rito immediato, cioè il processo immediato, è un processo che da 2 anni a questa parte non vede ancora la fine. Lei anche rinviato il giudizio, allora, per... No, aspetti, onorevole. Tutto quello che dovevo dire, adesso non vi rispondo. Senta, onorevole, ma fratello, perché è sposato. Lei è uno scostumato. Domanda, mi dice di no. Lei è uno scostumato. Cioè, no, quindi non è vero che suo fratello è sposato con la sorella... Scostumato. Di un boss che è al 41 bis. Lei è uno scostumato ed è di parte, ed è un fazioso. Se i magistrati hanno scritto che lei è referente nazionale di Casalesi. Ma dai. C'è stato anche un ma va a cagare, Giulione, alla fine si è sentito impercettibile. Vabbè, non deve essere stata una giornata facile. No, è chiaro, anche se la battuta migliore è io vorrei essere spiegato. È che il giornalista gli fa, lei vorrebbe, io vorrei essere spiegato. E il giornalista l'ha un po' preso per i fondelli, lui non se ne è accorto e ha ripetuto la carezza tale quale. Ma comunque, come dire, sui problemi con la lingua italiana dei nostri parlamentari c'è di peggio, c'è di peggio. Però Giglioli aspetta, perché si è con noi Mario Adinolfi, buongiorno, eccolo qua. Buongiorno Mario. Marione, stavamo ironizzando sul fatto che insomma adesso Montiano con calma e sobrietà vieni a noi, ecco, diciamo. Vabbè, certo. Con calma sobrietà. E sobrietà stavamo parlando di Nicola Cosentino. Allora, siccome sei un po' sei un po' ancora, insomma, ti sei svegliato da poco, diciamo la verità, voglio farti risentire. Benissimo, voglio farti risentire. Tu sai chi è Iliana Calabrò? No, come no? Subretta argentina, candidata del Popolo della Libertà tra le cose all'estero, e famosa anche per avere simulato che cosa in una celebre trasmissione televisiva. Te la faccio ascoltare, eh? Vai. Tira, Ecco, Marione. Qua. Di prima mattina, ragazzi. No, infatti, possibile senatrice della Repubblica Italiana. Devo dire che anche se vai su Google Images... Scommetto che c'è di peggio, guarda. Sì, c'è di peggio. No, stavamo parlando di Nicola Cosentino. Giglioli dice che la scelta di lasciar fuori Cosentino è la scelta di capire che sono più i voti che si prendono lasciando fuori una persona chiacchierata rispetto a quelli che potrebbe portare Cosentino. E questo è il messaggio dirompente. Tu condividi? Beh, sì, è successo qualcosa in queste liste, credo proprio importante. Non sottovaluterei, né, tra l'altro anche nel centro-sinistra, nel PD, hanno lasciato a casa Crisa Fulli. Insomma, è una scelta che evidentemente, secondo me, premia una mobilitazione della società civile. Insomma, per una volta tanto il fatto che ci sia una società molto più sveglia, diciamo, che forse alcune forme della comunicazione hanno reso tutto molto più evidente, penso in particolare alla rete, il fatto che ci siano soggetti che insomma sono particolarmente attenti alla questione della pulizia delle liste. Devo dire la verità, in questo il 5 Stelle di Grillo ha fatto una battaglia per anni, insomma, secondo me hanno sostanzialmente vinto una battaglia instillando nell'opinione pubblica la necessità che le liste fossero pulite. Non è che 5 anni fa andavano bene gli inquisiti, sì. È semplicemente diventato molto più evidente che una classe dirigente di politici inquisiti era indegna. Sì, la gente non le sopporta più queste cose, sinceramente. Allora, questa cosa bisogna capirci, perché 5 anni fa invece potevano andare 100 inquisiti in lista e adesso no? Evidentemente è successo qualcosa. È cambiato qualcosa. Intanto questa cosa va analizzata e forse danno anche dei meriti a chi si è battuto per il famoso Parlamento pulito. Insomma, Stiamo sintonizzati perché alle 12 Nicola Cosentino farà una conferenza stampa. Noi andiamo a sentire le informazioni sul traffico e rientriamo. 24 mattino. Telefono per l'ascoltatrice che sostiene che l'odio per Berlusconi da parte della sinistra nasce dall'invidia. Dall'invidia di che cosa? Di un miliardario che non si gode niente stando da una vita sul filo del rasoio per non finire in galera? Dila, che vergogna! Io quando ascolto le persone come l'ex governatore Lombardo mi viene l'orticaria. Questa gente è proprio... che gente è? Sono un camionista e cassa integrato. Volevo fare anche io un in bocca al lupo a Lombardo, ma che il lupo abbia una bocca talmente grande da poterlo ingoiare in una volta sola. Viva il lupo! Buongiorno, sono Sebastiano da Ivrea, ma io non sono arrabbiato, sono semplicemente incazzato, deluso, amareggiato. In Italia la politica vera, pura, semplice, genuina non esiste. Non andrò assolutamente a votare. Carissimo Milan, ma parla un po' di pensione, porco cane, oh! 40 anni di lavoro, bisogna andare in pensione, diglielo a quei scemi di politici di merda! Finalmente qualcuno che lo dice. L'Italia è il paese dei pensionati, degli statali e degli immigrati. Noi, italiani, piccoli imprenditori, non contiamo un cazzo. Buttate i sindacati nel Tevere, ma quello più profondo però, perché sono i responsabili da 50 anni del non lavoro in Italia, non del lavoro, e sono i colpevoli che fanno scappare gli investitori dall'Italia. Massacrateli! I soldi nostri dell'IMU sono stati spesi non per sanare i deficit dei nostri mangioni, ma per comprare due sommergibili, capito? Vabbè, i messaggi nella segreteria e poi vi daremo il numero di telefono come al solito tra qualche minuto. Siamo con Mario Adinolfi e siamo con Alessandro Giglioli. Ce l'ha fatta invece, sapete chi è entrato in lista? Questo invece ce l'ha fatta, a parte Scilipoti e Razzi, il mitico del World Urban Forum. Chi più di noi aveva quindi le caratteristiche idonee per ospitare la sesta edizione del Urban Forum? Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta Giglioli. Cesaro, ex presidente della provincia di Napoli, è in lista del Popolo della Libertà. Lui ce l'ha fatta, con l'inglese magari si applicherà un po' di più. Ma anche con l'italiano. No, beh, con l'italiano non lo so, però vi voglio far sentire questa. Ieri Ghedini, l'abbiamo presa dal Fatto Quotidiano, ha detto, secondo me, la cosa più straordinaria, cioè nel chiedere la sospensione, il processo Ruby, eccetera, tra l'altro verrà appunto sospeso, nel senso la requisitoria andrà avanti, ma il giudizio sarà dopo le elezioni. Sentite Nicolò Ghedini, avvocato di Berlusconi, cosa ha detto? Cioè, perché non posso, perché bisogna sospendere il processo? Sentite la spiegazione. Io trovo che stia accadendo una cosa veramente grave qui, perché tra l'altro io stamattina dovrei essere a fare altro, cioè dovrei essere a fare quello che mi impone il mio ruolo di candidato. Allora devo decidere, faccio il candidato o faccio l'avvocato? Quindi la vedremo fare comizi. Io ho sempre fatto campagna elettorale, io ho fatto anche un comizio su un carro nel 2001 in un mercato, è stata una bellissima esperienza. No, ma voglio dire, cioè, ad Inolfi, ma ci rendiamo conto, cioè, ha detto io dovrei fare campagna elettorale quando nessuno ha bisogno di fare nulla con il Porcellum, non c'è bisogno di parlare a nessuno, di incontrare nessuno, e quindi Ghedini ha detto io devo fare l'avvocato e non posso fare la campagna elettorale. Ma qua ci vorrebbe, su questo possiamo anche non stupirci, insomma. No, vabbè, ma qua ci vorrebbe il nostro Oscar Giannino che urla dei suoi ma basta. No, loro sono fatti così, diciamo, hanno un conflitto di interessi proprio inserito nel DNA praticamente, insomma, quindi è lì il conflitto per l'avvocato e il candidato è bellissimo. Io il comizio Giglioli, il comizio di Ghedini sul avrà carro fatto uno nel 2001, sul carro, vorrei vedere il video di Ghedini su un carro. Ghedini è sicuramente uno che sa arringare le folle, si vede che poi ha carisma personale, capacità di coinvolgimento e anche un che durò. Il fatto però al di là è che a noi, diciamocelo pure, siamo qua tutti e tre giornalisti stamattina che stiamo parlando ai nostri radioascoltatori, da un punto di vista giornalistico Berlusconi e i suoi sono un asset formidabile, cioè è insostituibile. Se io devo guardare come cittadino i danni che ha fatto a questo paese, ovviamente sono piuttosto contento che Berlusconi sia in declino. Da un punto di vista giornalistico, la giornata di ieri è stato uno spettacolo, la scena finale di una farsa. Io mi immaginavo non soltanto il Cosentino che scappava coi faldoni, che già è una scena da un film, ma mi immaginavo soprattutto questi aspiranti deputati o deputati uscenti che si sparavano a 200 all'ora sulla Roma-Napoli per arrivare entro le 8 nell'albergo in cui ma è una scena che neanche il più fantasioso, sì, però, devo dire che quando c'è la presentazione delle liste, forse Maria Dinolfi la scorsa volta com'è andata, perché anche tu avevi dovuto fare, immagino, mettere le firme, sì, no, ma diciamo, cioè è davvero questo mercato molto organizzato, sì, certo, per cui, la cosa più tremenda era che si pagava, perché c'era la cosa, sì, i posti alti in lista del PD. No, pagano un contributo al partito piuttosto sostanzioso, cioè si compra il posto. No, se no si contribuisce alla campagna e si contribuisce, ci si compra il posto. È una cosa molto, molto tosta, insomma, perché poi alla fine bisogna cacciare i soldi su Luca quando si firma. Posso dire una cosa? A me sembra comunque una campagna elettorale niente male, insomma. Si sono messe in campo delle opzioni. Io ieri ho provato a riassumerle in 5 righe, insomma, ci sono 6 opzioni molto chiare, ma poi i cittadini devono solo scegliere, non è una cosa proprio tremenda, è una buona, secondo me. No, ma è chiaro, c'è il momento. Io trovo una pessima campagna elettorale. Buona o pessima? Ma no, c'è il momento, del colore, c'è il momento del colore e le polemiche. Adesso si parlerà un po' di programmi, si vuole sperare. Ecco, appunto, non si è ancora parlato di contenuti. Lo so, i contenuti. Ancora questa cosa dei programmi. Cioè, il dramma vero è che i cittadini italiani non sono abituati a approfondire i programmi. Questo è vero, questo è vero. È un elemento. Ai cittadini italiani piace la competizione, diciamo così. Sì, multipolare, questo dopo un po' è anni, vero. Però forse riabituiamoli, cioè, io qualche pagina oggi sul Sole, c'è una pagina su cosa prevedono per scuola e ricerca, su Repubblica, sui diritti civili, riabituiamoli a questo. Io intanto vi devo salutare, vi ringrazio, Mario Dinolfi, Alessandro Giglioli, ci ritroveremo presto. Ora sì, vabbè, il giornale radio delle 7. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:20 minuti a leggere i giornali. Eccoci qua, ben ritrovati cari ascoltatori, o se siete arrivati e vi siete aggiunti ora, ben arrivati. Oggi avremo ospite alle 8:15 Giulia Bongiorno, che è candidata alla Regione Lazio per la lista Monti. È una lista civica, insomma, insieme all'UDC e Future Libertà. E poi parleremo di questa vicenda delle liste. Allora, si sono concluse ieri e sono state presentate le liste da tutti i partiti. Il caso Cosentino è in prima pagina per tutti i giornali. E parleremo soprattutto di quello con due ospiti, uno del Popolo della Libertà, Nunzia De Girolamo, e una del Partito Democratico, Rosaria Capacchione, entrambe campane, che conoscono dunque la situazione, sono candidate in campagna, e con loro approfondiremo questo tema dalle 8:30. E allora tuffiamoci nella lettura dei quotidiani in edicola. In questo martedì 22 gennaio il Sole 24 Ore apre sul fisco e welfare il titolo di prima pagina: casa, botte e redditi, riccometro più severo, mentre tutti gli altri quotidiani aprono appunto sulla vicenda liste e Cosentino. Il Corriere della Sera: il PDL esclude Cosentino. Repubblica: caos PDL, scaricato Cosentino. Per La Stampa: PDL fuori Cosentino e spariscono le liste, rivolta nel partito. Il Messaggero: Cosentino fuori, PDL nel caos. Per L'Unità: Cosentino, il PDL dei ricatti. Libero: Mastro Silvio è ritratto come Mastro Lindo per via delle liste ripulite, secondo Libero. Il Giornale: tutti gli eletti PDL. Il Manifesto: state in Campania. E c'è la foto di Nicola Cosentino, che promette, oggi alle 12 c'è una conferenza stampa, promette novità. Via anche Cosentino è il titolo di Avvenire, mentre il Fatto Quotidiano ha un'apertura diversa. C'è Cosentino, certo, Cosentino prende le liste e scappa, questo è il titolo di prima pagina, ma soprattutto un articolo, un'esclusiva su Monte Paschi Siena, i conti truccati e il contratto nascosto. È una vicenda che vedremo, ha solo il Fatto Quotidiano in prima pagina. Prima però voglio partire da due segnalazioni. La prima riguarda gli F-35, ricordate gli aerei da combattimento che l'Italia ha acquistato, dovrà acquistare, ha ordinato e acquisterà nei prossimi anni, credo un 90 più o meno, e che sono stati anche al centro di polemiche, chi dice sono soldi sprecati. E beh, insomma, questi F-35, super tecnologici, super fighi, super spaziali, super costosi, piccolo particolare, piccolissimo particolare, se vengono colpiti da un fulmine rischiano di incendiarsi. Questo almeno è quanto ha lanciato in un dossier e che viene rilanciato dai giornali, un giornale britannico, secondo fonti del Pentagono: volate lontano dai fulmini, allerta del Pentagono sugli F-35. Questo è l'articolo che trovate sul Corriere della Sera, pagina 22, Marconese, ma anche Repubblica mette il titolo e la notizia addirittura in prima pagina: alta del Pentagono, F-35 a rischio fulmini, bufera sui caccia che l'Italia paga 15 miliardi. Repubblica mette con Giampaolo Cadalano in prima pagina: costosissimo, difficile da mettere a punto, forse perfino già superato. L'F-35 è il caccia bombardiere più caro della storia, adesso sembra anche vulnerabile al brutto tempo. È una beffa il progetto Joint Strike Fighter, stato battezzato col nome commerciale di Lightning, cioè saetta. Ebbene, ha paura dei lampi. Insomma, c'è anche un qualcosa di davvero incredibile. Lo rivela un documento del Pentagono citato dal Sunday Telegraph, che sottolinea dei difetti di costruzione. Fra questi c'è la vulnerabilità al maltempo. Per farne diminuire il peso, gli ingegneri della Lockheed Martin hanno sbagliato nel progettare il serbatoio, che potrebbe esplodere se colpito da un fulmine. Per questo i piloti collaudatori hanno l'ordine di non avvicinarsi a meno di 40 km dai temporali. L'Italia ne ha comprati 90, ricorda il Corriere della Sera. Ora i partiti che già erano stati critici, come i DVSL, lo sono ancora di più, dicendo risparmiamo su questi soldi, è sbagliato, ma il Corriere ricorda che il ministro della difesa Di Paola all'inizio del suo mandato, racconta nell'articolo Marconese, ricordava è uno strumento con capacità fantastiche, ritengo perciò che si debba investire sulle sue qualità. E questa è la vicenda del supercaccia, costosi anche sul Fatto Quotidiano, l'aereo F-35 potrebbe esplodere in volo, così. Piccolissimo particolare sfuggito ai costruttori della Lockheed Martin, questo almeno rivela il Sunday Telegraph citando fonti del Pentagono. E poi, cari ascoltatori, io da 2 o 3 giorni su Twitter lo citavo sul mio profilo Alino Milan, anzi se volete vi invito a seguirmi se vi va. E se vi piace Twitter, insomma, ma com'è possibile che i giornali non pubblicassero notizie su quella che è la vicenda da seguire con più attenzione, la vicenda di Fabrizio Corona? Infatti i giornali, fortunatamente, anche se con ritardo, si sono svegliati. Oggi paginate ovunque sulla fuga di Fabrizio Corona. Dove è andato? La procura giura, sappiamo dov'è. È all'estero, ma in Europa, non ha varcato, diciamo, i confini dell'Unione Europea, o forse sì perché è in Svizzera, ma forse però è più probabilmente in Portogallo. Ieri raccontavamo di questa immagine romantica addirittura di Corona con 8 milioni di euro infrattati in sacchetti della spazzatura in Portogallo in fuga verso il Brasile. Ma chissà se è poesia o romanzo o è un'invenzione dei giornali. Sta di fatto che oggi i giornali si dedicano a questo. Corona all'estero, la pena tra l'altro sale a 7 anni. Perché la latitanza aggrava la situazione del fotografo, scrive Libero, mandato di cattura internazionale è spiccato per lui. La rete, il famoso popolo della rete, Facebook, Twitter, social network, cioè che tifa per Corona, per la fuga di Corona. E tra l'altro su questo si dedica proprio Vittorio Feltri, prima pagina del giornale con l'editoriale Corona è solo uno sbruffone ma non un criminale. Scrive Vittorio Feltri in prima pagina: Fabrizio Corona è quello che è, lo conoscono nel male, nel bene poco tutti e nel male tanto in molti. Quindi non è il caso che indulga anch'io a raccontarne le gesta. Se mi concesso, vorrei definirlo con un sostantivo abusato. È uno sbruffone, ma sì, uno sbruffone di talento sprecato, ma non un delinquente abituale. E Vittorio Feltri racconta qual è la vicenda che ha portato ai 7 anni di carcere, cumulando tra l'altro altre pene. Scrive Feltri: avendo diretto per la Rizzoli un settimanale L'Europeo, so come funzionano certi meccanismi. Il paparazzo segue un personaggio, se lo coglie in flagranza di peccato con una ragazza clandestina o avventizia, lo inchioda con un'istantanea, la quale istantanea fa ovviamente gola ai giornali, pronti a ben pagarla. Il fotografo a questo punto ha 2 opportunità, vendere il prodotto del proprio lavoraccio a un rotocalco o direttamente al bischero beccato in fallo. L'affare si conclude con chi offre di più. Mi rendo conto, il giochetto è ai limiti della liceità, talora li supera. Ma è questa una estorsione? Dipende dai punti di vista. Comunque 5 anni di carcere per una pratica assai diffusa nell'ambiente sono un'esagerazione. E qui Vittorio Feltri ricorda: quando dirigevo L'Europeo, ogni estate arrivava in redazione il piazzista di un'agenzia specializzata in immagini spinte, esibiva la foto di un grande dell'industria mentre dal suo yacht si tuffava biotto in mare con visibile l'apparato riproduttivo, col passare delle stagioni sempre più pendente. I funzionari della casa editrice e direttori delle varie testate si mobilitavano all'istante per acquistare lo stuzzicante servizio. Perché? Urgeva accaparrarselo allo scopo non di pubblicarlo, bensì di toglierlo dalla circolazione. Questa era la prassi, ma a nessuno venne in mente che si trattasse di estorsione. Corona invece per un'operazione o numerose operazioni simili deve scontare la reclusione a 5 anni, non 5 settimane. E conclude Feltri: su Facebook è in atto una campagna di simpatia verso il suddetto Corona. L'iniziativa spiega molte cose, una soprattutto: a volte, se tra le guardie e i ladri si preferiscono i secondi, un motivo c'è. Così Vittorio Feltri, insomma, continua la latitanza di Corona, una pagina su Repubblica, una pagina sul Giorno, Corona ricercato in tutta Europa, gli anni da scontare diventano 7. Dov'è Fabrizio Corona? Eccoci qua, allora molti giornali aprono quasi tutti sulla vicenda delle liste e Nicola Cosentino in primo piano. Nicola Cosentino alla fine non è stato messo in lista del Popolo della Libertà. Ieri è stata una giornata da psicodramma all'interno del Popolo della Libertà, questo raccontato da tutti i giornali. La vicenda Cosentino ha tenuto banco. Perché? Perché a un certo punto, quando si è sparsa la notizia che Cosentino era stato escluso, sono sparite le liste dei candidati con tutte le firme. Una questione serissima, perché entro le 20 andavano presentate. E chi le ha fatte sparire? Qui c'è un giallo. Il Popolo della Libertà smentisce dicendo che nessuno le ha fatte sparire. In realtà pare che le abbia prese o Cosentino o qualcuno vicino a Cosentino o qualcuno dei suoi uomini, e a quel punto è partita una vera e propria spedizione alle 15 per andare a recuperarle a Caserta, casa di Cosentino, da parte di Denis Verdini e Francesco Nitto Palma, vale a dire due esponenti di primo piano del Popolo della Libertà. Nitto Palma è il commissario del partito in Campania, e Denis Verdini è da sempre un uomo vicino a Berlusconi, colui che compone le liste. L'articolo migliore su questo è di Fabrizio Roncone a pagina 3 del Corriere della Sera. Verdini e Nitto Palma inseguono il fuggiasco, questo è il titolo. L'ex sottosegretario raggiunto a Caserta, fai il bravo. Nicola, sono Nitto Palma, porca miseria, sei impazzito? Inizia così l'articolo: mi avete fottuto. Nicola, ascoltami bene, io e Denis stiamo venendo a Caserta. È tutta colpa di Berlusconi, risponde Cosentino, ma io adesso faccio un macello. No, tu adesso fai il bravo e ti calmi, tra un'ora siamo lì e ci consegni le liste della campagna, d'accordo? Mi volete vedere in galera, mi fate tutti schifo. Così Nicola Cosentino: aspetta Nicola, aspetta, ti passo Denis. A quel punto il telefono passa a Denis Verdini, che dice a Cosentino: non mi piace il tuo comportamento, non mi piace proprio. Inizia così in questo che è un lungo retroscena, chissà se davvero la comunicazione sia stata di questo tenore. Sta di fatto che poi partono su una Mercedes verso Caserta, casa di Nicola Cosentino, per recuperare le liste. Lì avviene un incontro definito da Roncone drammatico, nico americano, come è definito Nicola Cosentino, agli occhi lucidi, la voce tremante, in un miscuglio di rabbia, incredulità. Lui di sempre, di solito freddo, affilato, misurato, gli suda la fronte, gli occhialini appannati, la cravatta slacciata. Verdini lo tranquillizza: dai, cerca di capire, è la politica, lo sai anche tu, ci sono certe regole. E Cosentino, che teme il cigolio della porta carraia di Poggio Reale, scrive Roncone, cioè che si apra il carcere per lui. Ricordate che la Camera aveva anche respinto due richieste di arresto per Cosentino. Sta di fatto che nel frattempo cosa succede? Nel terrore di non recuperare le liste, tutti i candidati della campagna vengono riconvocati per firmare un nuovo verbale. Racconta tra l'altro in questo Il Manifesto, c'è anche un incrocio surreale. Il Manifesto con Andrea Fabozzi a pagina 3 racconta che, siccome non si sapeva a un certo punto dove fossero le liste, riconvocano tutti i candidati della campagna per rifirmare. Li convocano per esempio all'Hotel Terminus a Napoli, dove c'è uno strano incrocio, racconta Il Manifesto, scene surreali. Aspiranti senatori si mischiano al casting del programma Mediaset Uomini e Donne nello stesso albergo di fronte alla stazione di Piazza Garibaldi a Napoli. Ma insomma è tutto pieno di retroscena. Anche Repubblica racconta: Nick fatto fuori all'ultimo secondo, cannibali, ma io non temo la galera, raccontano Carmelo Lopapa e Concita Sannino in questo retroscena su Repubblica. Tu sei innocente, ma userebbero te per attaccare noi e noi saremmo massacrati dai giornali, ci danno già dei camorristi, lo vedi? Con queste argomentazioni un Silvio Berlusconi, che tra l'altro viene definito da tutti i giornali come molto dispiaciuto, con gli occhi bassi, tristemente, che si è accodato a chi chiedeva di escludere la lista Cosentino, ha comunicato all'ex sottosegretario all'economia questa decisione. Da lì è partito lo psicodramma, appunto. Cosentino che dice: è una campagna cannibalesca contro di me, io non ho paura del carcere, ma certo teme lo stesso carcere. Nel pomeriggio Angelino Alfano, come ricorda il Corriere della Sera, pagina 4, ha definito così questa decisione: ogni scelta, come insegna la teologia morale, implica una negazione. Un sì presuppone a sua volta una bocciatura. Non c'è dubbio che il momento più drammatico è stata la scelta di non candidare Nicola Cosentino, perché da questa decisione potrebbero discendere, se non prevalesse il buonsenso della magistratura napoletana, conseguenze sulla libertà personale di un dirigente che abbiamo difeso in Parlamento. E sta di fatto che questa vicenda di Cosentino porta il Fatto Quotidiano ad andare addirittura a Casale di Principe con Antonello Caporale, che a pagina 5 racconta la reazione del paese natale di Cosentino. Casale preoccupata, ora rischia il carcere, vabbè, e qua ci sono varie testimonianze, come la barista che dice "so tutti cornuti eppure voi giornalisti", oppure la studentessa che dice "Cosentino è il peggio del peggio, faccio il liceo classico ed è una vergogna per la nostra comunità, il mio paese esiste per la camorra e per lui, due cose brutte", oppure c'è chi dice "ma no, è una persona per bene", e vabbè, e Casal di Principe in generale si arrocca a difesa di Nicola Cosentino. Che farà Nicola Cosentino? Oggi alle 12 una conferenza stampa, e Francesco Grignetti sulla Stampa racconta tutta una presa in giro. Ora Nick medita vendetta. Hanno deciso all'ultimo, per evitare le mie contromosse, l'ex sottosegretario ha riunito i suoi uomini a Caserta per decidere i prossimi passi, e è finita così. Il rischio di minacciare come Sansone, di far crollare tutto sui nuovi filistei, sta di fatto che vedremo oggi come si muoverà. Libero e Il Giornale plaudono a quello che è definito da Libero Mastro Silvio, viene ripreso in prima pagina e dipinto come Mastro Lindo della celebre pubblicità. Mastro Silvio fa le pulizie. Questa è la linea del Giornale e di Libero. Certo, poi sulle liste ci sarà ancora da scrutare, da vedere chi è entrato in lista all'ultimo. Beh, Razzi e Scilipoti ci sono, cari ascoltatori, ci sono. Sono stati messi in una posizione a rischio, perché Scilipoti è quarto in Calabria e Razzi quarto in Abruzzo. Sapete che erano due dei più chiacchierati dell'ultima legislatura, soprattutto dell'ultimo scorcio di legislatura. Sia Scilipoti che Razzi hanno trovato un posto in lista, ma si vedrà se verranno eletti oppure no. Chi anche tuona è Scajola, anche lui fuori dalle liste, ha rinunciato, ma insomma ha capito che altrimenti sarebbe stato fatto fuori. Scajola, scissione, oggi tutti a casa mia, si decide insieme. Pagina 7 del Secolo XIX parla con Marco Menduni. Il giorno dopo, quando ho visto alla TV un servizio sugli impresentabili, tra me e me mi sono detto, dice Scajola, ora infilano anche me. E quando ho visto che c'ero, da quel momento la polemica si è amplificata giorno dopo giorno. Insomma, così ha capito Scajola che lo stavano facendo fuori. So che c'è aria di tempesta. Ascolterò le posizioni di tutti i candidati in Liguria, ragioneremo, faremo politica, la politica si fa anche senza essere in Parlamento, non serve una poltrona per spiegare le proprie idee, si può anche essere fieramente solitari. Uno Scajola, anche lui, tutti attenzionati a capire che cosa farà, tra l'altro perché in Liguria è stato, in questi casi si usa questo termine, paracadutato Minzolini. Augusto Minzolini, ex direttore del TG1, sarà candidato, è candidato per il Popolo della Libertà in Liguria. Oggi, se volete, Minzolini fa una serie di interviste a Repubblica, al Fatto Quotidiano, al Messaggero. A Repubblica dice: mi avevano messo il bavaglio, meglio fare il senatore, non avevo in Rai più diritto di parola, che altro dovevo fare, dice in questa intervista a Goffredo De Marchis. Ma quindi lei per 5 anni basta col giornalismo? Vedremo. Anche Santoro è diventato eurodeputato. E quanto durò? Un paio d'anni, esatto. E la Gruber? Anche lei lasciò prima della fine del mandato. Ma insomma, sta già preparando la fuga? Ma no, mi sento impegnato in un passaggio importante per il paese. Da senatore entrerò nei camerini. Ho la sensazione che mi arricchirà prima di tornare al giornalismo. Uno che, dice Minzolini, ho una malattia che è il giornalismo e che ho sempre raccontato. Anche al Messaggero ero imbavagliato, ora respiro. E così al Fatto Quotidiano, in un'intervista di Beatrice Borromeo, io stimo Dell'Utri e sono in lista grazie al Fatto. Grazie a voi, quindi, insomma, anche per la forse persecuzione, dice Minzolini, che avete fatto. Marcello Dell'Utri, stimabilissimo e colto, ma si parla di reati diversi riguardo a me. Per quanto riguarda i 65.000 euro pagati con la carta di credito Rai, penso di avere tutte le ragioni e vedrà che lo dimostrerò. Poi lo sa che al Tribunale di Roma il 90% della gente viene rinviata a giudizio, dunque non si sente cosiddetto impresentabile. Minzolini, vabbè, liste, ne parleremo alle 8.30 ogni volta e ogni legislatura, quando c'è la presentazione delle liste, poi ci sono le annesse polemiche, durano qualche giorno, poi magari ci si concentra sulle cose un po' più serie, tipo i programmi, tipo le cose concrete. Intanto Mario Monti ieri si è molto adombrato nei confronti del Financial Times, in questo articolo del vice direttore Munchau, che ha detto non è l'uomo giusto per governare l'Italia. Monti si è arrabbiato, ha detto non è la linea del Financial Times, è la linea di un editorialista, un commentatore notoriamente frustrato nei confronti della politica economica di Angela Merkel, perché Munchau è un tedesco, e quindi Mario Monti si è molto inalberato. Per la verità un pizzico di ragione ce l'ha, perché ieri il Financial Times si è corretto con una nota a firma del suo direttore. E da qui ripartiremo dopo le informazioni sul traffico. E allora, dopo le accuse del vice direttore Munchau sul Financial Times, ieri è arrivata la smentita via Twitter, per la verità, del direttore Lionel Barber, che ha detto non è quella la linea del giornale. Ha scritto Barber: ho in programma di intervistare Monti a Davos giovedì, se le condizioni meteo degli aeroporti di Londra lo permetteranno. Il Financial Times pubblicherà stasera, cioè ieri, e oggi invece sul testo, una lettera di Mario Monti in risposta al provocatore editoriale di Munchau. E tra l'altro ieri il Financial Times ha fatto pubblicare un editoriale nel quale si scrive che Berlusconi è il cavaliere sorridente che ha portato l'Italia sull'orlo del precipizio, mentre Bersani e Monti due leader che hanno credibilità, gli unici due, conclude il corsivo, che insieme possono far ripartire il paese. Insomma, forse appianata questa polemica, che però per un giorno ha tenuto banco il duello tra Monti e il Financial Times. Che farà Mario Monti tra l'altro una campagna elettorale? Forse arrivano anche i comizi, racconta Alberto D'Argenio nell'articolo di Repubblica. Mario Monti è pronto anche a fare alcuni comizi in piazza, ha detto però a tutti i suoi candidati: non parlate più di alleanze con PD o PDL. Perché? Perché, dice Monti, noi dobbiamo avere una vocazione maggioritaria, perché l'immagine, se no, che rischia di passare è quella di essere la stampella del Partito Democratico. Tra l'altro, trovate qualcosa sui giornali di programmi, cose concrete? Sì, comincia sempre poco alla volta, come piccoli funghi. Oggi vi segnalo due pagine, una sul Sole 24 Ore, sull'istruzione e la ricerca. I due programmi messi a confronto, i programmi dei vari partiti messi a confronto, Eugenio Bruno e Claudio Tucci su scuola, università, ricerca, cosa prevedono la coalizione di Bersani, PDL e Lega, la lista Monti, il Movimento 5 Stelle, Rivoluzione Civile d'Ingroia, i fare per fermare il declino di Oscar Giannino. Trovate a pagina 13 tutto dettagliato. Magari quindi entriamo anche nelle cose un po' concrete. C'è da dire che anche Repubblica oggi fa una pagina sui diritti civili e le posizioni dei vari partiti, centrosinistra, centro e centrodestra, su unioni civili, cittadinanza ai bimbi immigrati, testamento biologico e il tema delle carceri. Trovate questa pagina anche qui, ma abbastanza concreta, pagina 11 di Repubblica. Voglio andare però sul Fatto Quotidiano, perché, come dicevo, fa un'apertura sul Monte Paschi Siena. È un'apertura che c'è solo su questo giornale, è sul dossier Alexandria. Scrive il Fatto che è stato trovato in una cassaforte l'accordo tra Mussari, l'ex di Monte Paschi Siena, e la banca giapponese Nomura. Un'operazione che è un'intesa che serviva a far sparire dal bilancio un buco di almeno 220 milioni. Scandalo a Siena, un'operazione che ci costerà mezzo milione di Monti Bond in più, così giura il Fatto Quotidiano, e tutti i dettagli di questa operazione Alexandria. Così Monte Paschi Siena truccò i conti, questo è il titolo di pagina 2, a firma Marco Lillo. dove si legge: il Monte Paschi Siena nel 2009, durante la gestione di Giuseppe Mussari, ha truccato i conti con un'operazione di ristrutturazione del debito per centinaia di milioni di euro, di cui oggi i contribuenti italiani pagano il conto. L'operazione, denominata Alexandria dal nome di un contratto derivato simile a quel Santorini del quale si è parlato tanto nei giorni scorsi e che scolora di fronte all'ultimo cadavere trovato nelle casseforti di Rocca Salimbeni. L'amministratore delegato Fabrizio Viola e il presidente Profumo hanno scoperto il 12 ottobre 2012 un contratto segreto risalente a luglio 2009 con la banca Nomura relativo al derivato Alexandria. Quel contratto, scrive il Fatto Quotidiano, impone subito una correzione nel bilancio 2012 da 220 milioni. Ma i consulenti di Pricewaterhouse ed Eidos stanno studiando per quantificare il buco reale, che è certamente più alto. Un autorevole uomo del monte sotto garanzia di anonimato parla al Fatto di un buco di 740 milioni di euro. Ci sono anche delle intercettazioni tra l'allora capo, appunto, numero uno Mussari e il responsabile della banca Nomura. Insomma, è una notizia che dà il Fatto Quotidiano e che sicuramente avrà degli sviluppi in giornata, immagino anche con qualche replica sia dello stesso Mussari sia di Monte Paschi Siena attuale, a capire com'è la situazione. Certo, il Fatto Quotidiano dice: siamo anche in possesso di documenti che dimostrano di questa operazione Alexandria. Trovate tutti i dettagli sul Fatto. A proposito di economia, ieri il ministro dell'economia Grilli ha detto che non ci saranno nuove manovre, e ha rassicurato anche sul pareggio di bilancio da raggiungere nel 2013 al netto del ciclo, e c'è la possibilità anche di abbassare le tasse. A proposito di tasse, vi segnalo, o meglio di situazione del portafoglio degli italiani, l'apertura del Sole 24 Ore dedicata al fisco e welfare, perché c'è il calcolo del nuovo ISEE, dove rientreranno anche i guadagni che in precedenza erano esclusi, e dunque un ricometro più severo su immobili, risparmi e redditi. La casa in particolare vede sempre crescere il suo peso nel nuovo ISEE, cioè l'indicatore della situazione economica equivalente, che sarà al vaglio giovedì di regioni e comuni. È quello strumento che intende anche un po' a stanare i furbetti del welfare, perché tante prestazioni del welfare dei nostri comuni sono in base al livello dell'indicatore ISEE, e ci sono persone che magari riescono a fare i furbetti, accedere a servizi che non sarebbero loro accessibili, perché riescono a taroccare, in qualche modo a fregare sul valore, appunto, sull'ISEE. E allora tutti i dettagli su come cambia l'indicatore della situazione economica equivalente lo trovate a pagina 3 del Sole 24 Ore, a firma Maria Carla De Cesari e Gianni Trovati. Chiudo con un'inchiesta che trovate sul Secolo XIX in prima pagina, un'inchiesta interessante, perché quante volte siete lì magari a pranzo e vi arriva la telefonata di quel call center: scusi, vorrei delle informazioni, e chi vi ha dato il numero di telefono mio? Ebbene, al bazar dei numeri di telefono, Francesco Margiocco, un'inchiesta sul Sole 20, sul Secolo XIX, scusate, trovate poi all'interno a pagina 13, come i nostri numeri di telefono finiscono, magari se firmate un contratto con una palestra, finiscono in un calderone dei call center. È tutto legale, spesso purtroppo per noi sì, e non purtroppo per chi ci chiama, è tutto legale. La nostra privacy venduta a 10 euro. "24 Mattino", l'Italia si desta. Eccoci qua alle 8:17 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, siamo pronti a parlare di attualità politica. Parleremo dalle 8:30 delle liste e la vicenda soprattutto Cosentino. Prima però saluto, è con noi Giulia Bongiorno, che è candidata alla presidenza della Regione Lazio per Futura Libertà, il suo partito UDC, ma anche con l'appoggio di Monti. Benvenuta a Radio 24, eccoci qua. Grazie, grazie dell'invito e buongiorno a tutti. Allora, prima di parlare di Regione Lazio, chiedo anche a lei, visto che è un deputato uscente e tra l'altro è candidata anche al Senato, insomma, lei come la vede questa vicenda delle liste? È contenta, anche se da osservatore di un altro partito, che sia finita così con l'esclusione di Cosentino? Allora, personalmente io sono stata promotrice di una proposta di legge che dettava dei criteri di candidabilità molto rigorosi, perché vede, il candidato, il nome stesso candidatus, deve essere candido. Se io rappresento qualcuno devo essere candida, ma a prescindere dalla legge, secondo me ogni partito dovrebbe avere in sé quegli strumenti che sono la semplice opportunità e il buonsenso che gli consenta di selezionare quelli che sono ovviamente i candidati candidi. Ora, il problema del PDL secondo me è stato un po' particolare, perché mi sembra un po' semplicistico ridurre il problema alle candidature pulite e non pulite, quando sul piano della legalità, in questo quinquennio, lei sa che io ho presieduto la Commissione Giustizia, sì, l'atteggiamento del PDL in sede di commissione è stato un atteggiamento di frenata alle leggi anticorruzione. Allora comprendo anche forse questo tipo di reazioni che ci sono dei candidati esclusi, perché ecco, non mi sembra che questa attenzione alla pulizia dell'ultima ora improvvisamente può ridare verginità al tema della legalità. Cioè, secondo lei hanno utilizzato alcune persone per dire: vedete che adesso siamo, tra virgolette, uso questo aggettivo, puliti, ma in realtà secondo lei è una pulizia di facciata? No, io dico un'altra cosa, dico che è corretto quello che hanno fatto, dico che non è che con questa pulizia dell'ultima ora ci possiamo dimenticare l'atteggiamento in materia di giustizia avuto in questi 5 anni, ecco, mi sembra un po' pochino. A questo proposito, Fini, in una recente intervista, il capo del suo partito, ha detto: Berlusconi ci chiedeva di piegare le leggi ai suoi processi, lo faceva con me e con il presidente appunto della Commissione di Giustizia, cioè lei, Giulia Bongiorno. Lei conferma? Ma io le posso dire questo, che la causa effettiva, vera, autentica e reale della nostra rottura con Berlusconi è stata esattamente questa. Noi non interessavano i suoi processi, è giusto che lui si difendesse nei suoi processi, non è stato questo il problema, è che lui riteneva che la Commissione Giustizia potesse essere a disposizione per ritagliare leggi su misura per salvarlo dai suoi processi. In questo modo, da un lato avremmo fatto una serie infinita di leggi ad personam, dall'altra parte non avremmo occupato il tempo, così come è stato poi per le leggi effettive, generali, astratte, che servono a tutte. La rottura, guardi, è stata, e ci sono documenti che lo attestano, sulle intercettazioni, sul processo breve, sul processo lungo, su tutte quelle leggine che servivano per i suoi processi. Senta, parliamo della Regione Lazio. Lei tra l'altro però è candidata appunto anche al Senato, quindi sì, qualcuno potrebbe dire: ma è una candidatura di facciata quella alla Regione, sapendo che non vincerà? Guardi, è una candidatura quella alla regione che viene successivamente, quindi certamente non è una candidatura di comodo con la quale allora poi ho ottenuto l'altra. Mi è stato chiesto un doppio impegno, avrei potuto dire di no e fare, perché con questo tipo di campagna elettorale, ovviamente con questo tipo di sistema elettorale, lei sa che essendo in testa di lista ovviamente sarei stata eletta. Invece sì, quando mi è stato chiesto anche un impegno concreto, concomitante, in regione, sul territorio, girando le città così come sto cominciando a fare, ho ritenuto di accedere a questa richiesta. Quindi non è che con questo ho ottenuto nulla. Cosa opterà? Cioè, perché poi immagino alla regione comunque vada, verrà eletta se è messa a capolista. Cosa opterebbe? Allora, se la Regione Lazio volesse come presidente Giulia Bongiorno, è ovvio che sarebbe per me una tale novità, sicuramente prorompente per tanti aspetti della mia vita, però io, visto che ho detto sì, devo accettare questo. Sì. Quindi dovesse invece non andare bene, essere eletta come consigliere regionale, immagino che rinuncerebbe a quello. Vorrei proseguire questo impegno che è stato importante ma molto limitato a causa appunto dell'atteggiamento del PDL in Commissione Giustizia. In Commissione, quindi al Senato. Senta, lei ha chiesto che i suoi candidati sottoscrivano un codice etico. Di cosa si tratta? Cioè, cosa prevede questo codice? Guardi, è quello un po' che cercavo di dire prima. Secondo me il problema non è solo che non ci siano carichi penali, quindi che non si abbiano processi penali in corso. mi piacerebbe un qualcosa in più. Nel caso specifico, io ho redatto un piccolo atto, nulla di che, però nel quale chiedo a questi soggetti, a questi candidati, se hanno dei potenziali conflitti di interesse, se hanno nel momento in cui dovessero fare una delibera qualcosa che può in qualche modo stridere con quel tipo di oggettività che si deve avere nel decidere, quindi di farmelo sapere subito e prima, e poi metto una serie di paletti, appunto, se dovessero poi sopravvenire eventuali interessi successivamente di carattere economico in contrasto con gli interessi della regione, delle indicazioni di comportamento. Ma voglio dire, uno firma questa cosa e poi c'è un controllo preventivo prima della candidatura, magari affidato al commissario Enrico Bondi, come a livello nazionale per Monti? Guardi, qui io a livello regionale quello che sto facendo è che mi sto facendo sottoscrivere delle dichiarazioni che sono autocertificazioni, ovviamente non mi posso trasformare in un investigatore privato. Ciascuno dei candidati, se attesta una serie di dati, lo fa sotto la sua responsabilità. Io di più ovviamente non posso pretendere, non sarebbe corretto. Mi sembra un passo in avanti piuttosto che quello di dire io candido solo quello che mi porta il pacchetto di voti e stop. Le devo dire che questo comporta, è inutile dirlo, ovviamente anche delle esclusioni che possono essere dolorose per i partiti. Senta, l'ultima, la vicenda della Regione Lazio sappiamo è associata soprattutto per i cittadini allo scandalo fiorito, l'uso dei soldi per i gruppi consigliari. Lei eventualmente da presidente della Regione Lazio come farebbe, che primo provvedimento prenderebbe per dare un segnale ai cittadini su questo, sulla politica? Allora, è di intuitiva evidenza che occorre ovviamente ridurre quelli che sono i compensi di chi svolge certi incarichi, però mi sembra una risposta troppo ovvia, io vorrei andare un po' oltre. Io sono convinta che se si è creata questa situazione nella Regione Lazio, se c'è una dilagante corruzione, questo è perché proprio manca alla base un sistema serio di controlli, cioè un vero e proprio modello organizzativo che stabilisce che non può essere, ad esempio, il soggetto controllato che fa il controllore. C'è troppo caos, disorganizzazione e menefreghismo. Quindi bisogna introdurre, un po' come si fa nelle piccole aziende o come si fa negli studi legali, proprio dei modelli organizzativi, delle procedure. Addirittura, guardi, io arriverei a pensare a specie di veri e propri obblighi di denunzia. Cioè, se io mi rendo conto che qualcosa non va, basta questa storia che uno dice tanto le cose vanno male, hai l'obbligo di denunziare, cioè, nel senso, se un consigliere vede qualcosa che non va, i modelli organizzativi servono a questo, di un suo collega. Per adesso si fanno nelle aziende private si creano questi modelli organizzativi. Io come penalista spesso sono stata chiamata a creare questi modelli per delle aziende. Sono dei modelli proprio per prevenire i reati. Vedo perché non lo dobbiamo applicare alla regione. Anche alla regione. Senta, lei ha scritto una lettera di recente al Messaggero perché Silvio Berlusconi avrebbe commentato così le candidature alla Regione Lazio. La Buongiorno, cioè lei, non è certo bella, ma la Matone, cioè Simonetta Matone, è brutta, mentre la Lorenzin, che era impredicato di essere candidata, poi ha prevalso Storace. Perché? Cosa l'ha fatta arrabbiare di questa battuta che avrebbe detto Silvio Berlusconi? Guardi, una delle poche cose che condivido con il presidente Berlusconi è questo giudizio nei miei riguardi, che non sono bella. Detto questo, lui ironia, ma tra l'altro, guardi, quasi quasi me ne faccio un vanto, perché comunque non è che io le cose che ho raggiunto le ho raggiunte con altre virtù. Allora, quello che mi ha fatto arrabbiare è l'idea che un uomo che è stato premier, un uomo potente e importante, possa pensare di selezionare le candidate per la regione in base alla bellezza. Ma questo altro non è che uno dei suoi metodi che costantemente ha usato durante tutta questa sua legislatura per selezionare. Si ricorda quando ci furono le europee, c'era pure un concetto di questo genere che lui aveva evidenziato. Dopodiché ha creato anche degli strascichi non proprio indifferenti, insomma, anche la vicenda. Ha creato gli strascichi indipendenti. Poi guardi, quando un ex premier, nel parlare di giudici, parla di giudichesse, significa che c'è un grande disprezzo, perché non esiste questa parola. Consideri che lui a me mi continua a chiamare sempre o signora o avvocatessa. Guardi, io avvocatessa non lo sopporto, perché anche questo è denso di dispregiativo. In realtà non ha assolutamente considerazione per le donne. Vorrei che però le donne al momento del voto se lo ricordassero. Un'ultima battuta con Giulia Bongiorno. Senta, lei da tempo si batte anche per tutelare le donne contro il dramma dei femminicidi. Intanto le piace questo termine, femminicidio? Abominevole, ma effettivamente ma rende la realtà efficace. Di recente, qualche giorno fa, un cittadino marocchino ha ucciso la sua ex compagna, ex moglie, e il vice sindaco di Bernareggio, un paese in provincia di Monza, ha detto: beh, vedete, così finisce se uno si mette con un musulmano. È un modo, come dire, sbagliato di approcciare un problema reale che c'è. Lei cosa pensa di questa frase? Penso che questa, come la battuta che ha fatto qualche settimana fa il sacerdote Don Piero, sono dei commenti di una gravità inaudita, perché in qualche modo giustificano o diminuiscono la gravità della violenza, che invece va condannata senza se e ma. Io una proposta di legge che ho fatto, che è stata definita da alcuni una proposta shock, è quella di punire con l'ergastolo il femminicidio, cioè quando un uomo uccide una donna per causa d'onore, cioè per gelosia o perché avrebbe violato una presunta regola d'onore. Fino all'81 questo tipo di condotta era punita da 3 a 7 anni, come l'incendio di un motorino, quindi la donna come un motorino. Ecco, io direi invece di mettere l'ergastolo. L'ergastolo. Intanto la ringrazio, in bocca al lupo ovviamente per la sua campagna elettorale doppia. Grazie, Giulia, buongiorno. Grazie, allora, grazie a tutti e buongiorno. Per essere stata con noi, Giulia Bongiorno, candidata alla presidenza della Regione Lazio per Futura Libertà e UDC, e diciamo l'appoggio anche di Monti. 24 mattino. Siamo qua allora alle 8:35 minuti per parlare di liste che si sono chiuse. Sicuramente la notizia che trovate sui giornali e il nome che trovate più pronunciato sui giornali, più citato sui giornali oggi, è quello di Nicola Cosentino. Nicola Cosentino, ex sottosegretario all'economia, è accusato di associazione esterna alla Camorra e tra l'altro è stato escluso dalle liste del Popolo della Libertà. Su tutti i giornali è raccontato anche lo psicodramma che è andato che si è svolto ieri all'interno del partito, perché a un certo punto, quando si è sparsa la notizia che Cosentino sarebbe stato escluso, sono sparite le liste dei candidati della campagna del Popolo della Libertà. Chi le ha prese? Secondo ricostruzione dei giornali, le aveva in mano lo stesso Nicola Cosentino, tanto che è partita una vera e propria spedizione con Denis Verdini, così racconta il Corriere della Sera per esempio. Denis Verdini e Nitto Palma, due importanti esponenti del partito, in campagna a recuperare a casa di Cosentino, al termine di un colloquio drammatico, le liste che andavano presentate entro le 20, altrimenti ci sarebbero stati dei problemi di non poco conto. Intanto vogliamo parlare di questo con Rosaria Capacchione, che è una giornalista che è candidata capolista al Senato in campagna per il Partito Democratico, e che saluto. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, Capacchione. Buongiorno a tutti. Allora, tra l'altro devo dire, abbiamo cercato e contattato Nunzia De Girolamo, che doveva essere il nostro ospite, e al momento il cellulare è spento, questo lo dico per correttezza. Intanto, Rosaria Capacchione, lei ha una vita anche sotto scorta ancora attualmente per le minacce, per gli articoli scritti nei confronti dei casalesi, è così? Sì, è ancora così. Che ne pensa della vicenda Cosentino? Ha fatto bene per lei il PDL a escluderlo? Immagino che questa sia la risposta sì, ma che considerazioni può avere? Ah, sono delle considerazioni in questo momento, diciamo, umane. Io ho pensato dal primo momento che se mi fossi trovata al posto di Cosentino, fin dall'inizio, io avrei scelto un'altra strada, avrei rinunciato all'immunità parlamentare, mi sarei fatta arrestare. Sono rimasta convinta che, anche se si sostiene di essere vittima di un'ingiustizia, bisogna comunque sottoporsi al processo, se è previsto dalla legge, anche all'arresto. Quindi diciamo che tutta questa storia, fin dall'inizio, io non non appartiene al mio modo di pensare, al mio modo di... Beh, ma chi mi scusi, con la possibilità di andare in carcere, perché questa era stata la richiesta di arresto arrivata alla Camera, chi è con la possibilità di sfuggire al carcere in qualunque modo, non giudichiamo il modo, umanamente non è portato, secondo lei, a evitare di andare in carcere? No, perciò voglio dire, prevale in questo momento la considerazione umana, però non la condivido, forse perché... Io mi sarei comportata diversamente, anche di fronte alla prospettiva drammatica e dolorosa del carcere avrei fatto un'altra scelta. Diciamo che ragiono un po' come, senza voler fare paragoni osceni, come Socrate. Ho sempre pensato che quella, la linea da seguire per chi è in politica, era quella lì di sottoporsi alla legge anche quando la legge non ti appare ingiusta. È la legge tua che regola la tua democrazia, l'hai scelta tu, non può essere buona solo quando è sfavorevole. Però ricordiamo una cosa, a stretta normativa di legge Cosentino era candidabile, assolutamente candidabile. Allora, perché una persona che non ha avuto ancora nessun tipo di condanna, secondo lei, non deve far parte delle liste? Dipende se che tipo di reato è. Cioè, una cosa è avere a che fare, aver avuto una lite di condominio, un'altra cosa è essere accusato di reati molto gravi, come il concorso esterno nell'associazione mafiosa o nel caso della corruzione, i reati contro la pubblica amministrazione, contro tutti i cittadini, di aver messo le mani nelle tasche di tutti i cittadini. Credo che si tratti di profili diversi dove prevale l'opportunità rispetto anche al codice strettamente letto e interpretato. Perché? Per esempio nel codice etico del PD il rinvio a giudizio per reati di mafia, anche se solo un rinvio a giudizio pregiudica la candidatura. Mi rendo conto che è un codice etico e non la legge, però la politica credo che sia qualcosa di diverso anche da questo. Vogliamo risentire tra l'altro Nicola Cosentino. Ieri Piazza Pulita di Corrado Formigli lo ha in qualche modo inseguito con un giornalista. Sentiamo Nicola Cosentino. Prima, ovviamente, questo è avvenuto prima dell'esclusione poi delle liste alle 20. Ci sono alcuni pubblici ministeri che ritengono che io abbia preso voti da parte delle organizzazioni criminali denominata Casalesi. Allora io vorrei essere spiegato da questi. Com'è possibile che in un sistema elettorale io vorrei essere spiegato, e questo lo sto chiedendo ai giudici ai quali mi sono rivolto, e ho chiesto il rito immediato, cioè il processo immediato, è un processo che da 2 anni a questa parte non vede ancora la fine. Lei anche rinviato il giudizio allora, aspetti, onorevole. Tutto quello che dovevo dire, adesso non mi rispondo. Senta, onorevole, mio fratello è sposato. È uno scostumato. Domanda, mi dice di no. E lei è uno scostumato. Cioè, quindi non è vero che suo fratello è sposato con la sorella di un boss che ha il 41 bis. Lei è uno scostumato ed è di parte, ed è un fazioso. Se i magistrati hanno scritto che lei è referente nazionale di Casalesi. Ma dai. Vabbè, è finita così. All'inizio ha risposto, poi si è molto arrabbiato Nicola Cosentino. Rosaria Capacchione, le vorrei chiedere questo. Con questo Popolo della Libertà ha tolto un argomento sicuramente di campagna elettorale, perché nei retroscena lo stesso Berlusconi, questo raccontano i giornali, avrebbe detto devi farti da parte perché c'è questa vulgata, ci danno dei camorristi così sui giornali. Con questo invece, secondo lei, il Popolo della Libertà ha fatto una mossa tra virgolette vincente dal punto di vista poi elettorale? Questo non lo so, io non sono persona di partito, io sono una persona della società civile, ho fatto fino al 3 gennaio quando mi ha chiamato il segretario Bersani, ho fatto tutto un altro mestiere, mi sono occupata proprio delle cose di cui è accusato l'onorevole Cosentino. E lei metterebbe lei metterebbe la mano sul fuoco sull'innocenza, sulla colpevolezza da giornalista, visto che perché Cosentino dice io sono innocente, sono dei disgraziati che mi accusano, dei pentiti di camorra, dei persone che non dovrebbero avere alcuna credibilità, e alla fine dimostrerò la mia innocenza. Lei da giornalista? Io credo che l'onorevole Cosentino abbia ragione solo sulla lentezza del suo processo. Poi per il resto non lo so, cioè non avendo seguito il suo processo fino a un certo punto, stavo aspettando prima della proposta di candidatura di sapere come andasse a finire. Non ho di questi pregiudizi, ho visto tante persone. No, ma che idea si è fatta? Condannate e viceversa. Però da cronista che idea si è fatta? È vero che lei non è il giudice, ma... fatta l'idea che erano delle accuse piuttosto forti che andavano verificate al dibattimento molto seriamente. Allora mi faccio dare qualche ascoltatore. 800 24 00 24 per intervenire, poi dopo il traffico le dovrò fare anche qualche domanda, perché ancora oggi Libero scrive invece della sua situazione. Anche lei ha, diciamo, una situazione giudiziaria che è stata rinviata ma che dovrà affrontare. Stefano da Pistoia, buongiorno. Buongiorno Milan, complimenti anche per la trasmissione. Senta, e come dice lei, bisogna sempre tenere le mani ben, diciamo, sistemate, se si adopra, se si guida, se si adopra anche oggetti che mani sbagliano. Mani sul volante. Dica, Stefano. Io dico, come si fa? Cioè, queste persone, con quale coraggio? Ma anche, come possiamo riavere fiducia? Queste noi? Persone chi? Mi scusi, Stefano. Ma perché? Io queste persone, ora stiamo parlando di Cosentino, stiamo parlando... Sì. Anche di svariati altre persone come io, ieri mattina, se non ho capito male, se lei mi vuol confermare, il signor Raffaele Lombardo, ex presidente. Nostro ospite, si candida. Nostro ospite ieri mattina, se non ho capito male, ha detto: io mi ricandido in primis per salvarsi se stesso. Per salvare il movimento. Il movimento, ma cosa stiamo parlando? Io mi candido per salvare il mio partito, il mio movimento. Non ha niente della situazione italiana, di tutto questo sfascello che c'è nella politica. Questi sono tutti uguali, signor Mela, ma come facciamo? Però lei dice Cosentino. Cosentino non c'è nelle liste, cioè lo sai, è stato escluso, quindi per lei sarà una buona notizia, immagino. È stato escluso dal polverone che è stato alzato, se no queste persone sarebbero in Parlamento tranquillamente, sarebbero capi dei consigli regionali, qui è la fine del mondo, ma perché ora si è alzato questo gran polverone, questo movimento antipolitico che insomma qualcosina sta producendo? Vede che a volte anche le campagne stampa, almeno leggo dal suo punto di vista, possono portare a dei risultati per lei positivi. Grazie Stefano da Pistoia. Al traffico, poi entriamo, con noi c'è Rosaria Capacchione, che ricordiamo per il Partito Democratico è capolista al Senato in Campania. Legno Edilizia, in Fiera Verona dal 14 al 17 marzo. Vi presenta Strade in diretta. Il traffico si mantiene molto intenso intorno a tutte le grandi città. In Liguria sulla 12 la Genova-Livorno tra Nervi e Recco in direzione di Livorno, le code si sono accumulate dopo che si è ribaltata un'auto. Tra Sestri Levante e Lavagna traffico deviato in A12 dopo la chiusura per frana della Statale 1, la via Aurelia. Circolazione più difficoltosa del solito attorno a Genova dopo che all'uscita di Bolzaneto della 7 Milano-Genova un mezzo ha perso del carico in carreggiata. Cioè un incidente sulla tangenziale di Napoli, sulla carreggiata verso Capodichino, ci sono code tra Fuorigrotta e Vomero. Noi torniamo tra un'ora. Sono le 8:46 minuti, vorrei andare da Alberto, dalla provincia di Monza e Brianza. Buongiorno la a tutti. Provincia che resiste a tutto. I complimenti, dica Alberto. Allora, brivido dei brividi, questa mattina do una lettura così veloce dall'iPad all'elenco del PDL, Lombardia 2 al posto al numero 10 Renato Farina. Sì. Ma non si può, dai. Non si può per lei, insomma. No, per carità, persona per tutti, per quante cose, però dopo l'umiliante mia colpa fatto in Parlamento, se non sbaglio delle condanne, non lo so. Ha patteggiato, credo, qualche condanna. Insomma, quella dell'Ele Mora mi pare di no. Lei era stato anche lei abbastanza critico con Renato Farina per la storia di Sallusti e tutto, lo ricordo benissimo il suo intervento, per carità, però... Insomma, lei non piace non questo nome, aver visto questo nome? No, tanti nomi, no, per carità del signore. Questo è il primo che l'ha colpita, ecco. Colpita ce ne sono parecchi. Questo qui è quello che mi sembrava un pelino più... più anormale, ecco, non eclatante, per carità, la persona non si discute quello che si fa, però se c'era chiarezza, se c'era pulizia, non volevamo più questi e quell'altro, non dimentichiamo il mia culpa in Parlamento, che è stato veramente deleterio. Sull'articolo di Sallusti. La ringrazio Alberto, vorrei andare a Catanzaro, da Rino, dalla provincia di Catanzaro per la verità. Rino, buongiorno. Salve, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Dica. Io volevo fare una domanda. Ma se ci fossero state le primarie anche nel PDL, sì, l'onorevole Cosentino sarebbe rimasto fuori? Ma credo proprio di no, nel senso che è notorio che Cosentino ha un bacino, e questo è sempre detto dai giornali, di 30.000 voti, di consensi molto ampi in parti della campagna, soprattutto Caserta, dove lui vive. Quindi credo di no, Rino. Però glielo chiedo anche a Rosaria Capacchione, è vera questa cosa dei 30.000 voti che Cosentino avrebbe messo sul tavolo? Cioè è davvero una persona che riesce a mobilitare così tanti consensi elettorali? Penso di sì. Il problema è che Rino è soddisfatto della risposta, però anche il Partito Democratico, alcuni hanno vinto le primarie e poi sono stati esclusi perché giudicati inopportuni dal Comitato dei Garanti. Sì, però la mia domanda ovviamente era un po' provocatoria, nel senso che spesso uno strumento democratico quale può essere quello delle primarie, che è indiscutibilmente, voglio dire, uno strumento, cioè, rispetto alla legge elettorale che abbiamo, uno strumento ottimo, voglio dire, però non sempre le scelte che fanno gli elettori poi sono le scelte migliori. Ma come possiamo, cioè, il voto non è che si può giudicare per qualità, si giudica per numeri, caro Lindo. No, io parlo di opportunità, sicuramente non nessuno... Ma infatti dovrebbero essere i partiti che giudicano. Io là volevo andare. Rino, però sa, non è che uno può obbligare un partito a prendere... Il partito si trova da una parte la possibilità di scegliere tra 30.000 voti sicuri, più o meno, e dall'altra parte a dire, allora rinunciamo a parte di questi 30.000 voti, perché magari quei 30.000 non votano più il candidato che mettiamo al posto di quest'altro. E sono scelte politiche difficili, perché è un partito che rinuncia a tot migliaia di voti è un partito che magari rischia di perdere le elezioni. Quindi. Però vorrei tornare per un attimo a Rosaria Capacchione. Senta, anche lei ha un processo che è stato rinviato, per la verità. Lei è accusata di calunnia, credo, questa è l'accusa, nei confronti di un maresciallo della finanza, un maresciallo che indagava, così ho letto dai giornali, mi dica se sbaglio, che indagava sulle vicende imprenditoriali di suo fratello Salvatore. Lei si è posto il problema sulla questione dell'impresentabilità, visto che anche lei è a processo? Io, per la verità, è un processo che va avanti da 9 anni, esisteva già sia quando ho avuto la scorta sia quando mi sono candidata alle europee, e che è alla fine, prima o poi finirà. È stato rinviato non per mia richiesta, ma c'era un processo così lungo, capita che ci siano delle concomitanze. Diciamo che quando è stato chiesto il rinvio non ero stata neanche contattata dall'onorevole Bersani, e non credo che, ritengo che il partito abbia fatto un altro tipo di valutazione, che non siano sovrapponibili le due posizioni, che è un fatto vecchio ancora ma il mio non era un paragone, diciamo, con Cosentino, perché per carità poi l'accusa di calunnia non è certo l'accusa dell'associazione esterna della Camorra. Però oggi per esempio ancora il Libero, glielo cito, titola sui misteriosi giri di soldi, cioè sarebbero spuntati 5 miliardi di vecchie lire sul suo conto. Magari, forse non stavamo parlando stamattina. Guardi, le posso dire che è una questione che, per quello che riguarda, visto che l'ha tirato in ballo, anche se non c'entra niente nelle vicende mie e mio fratello, si sono risolte da tempo già con delle assoluzioni nel merito su richiesta del pubblico ministero. È rimasta pendente solo una cosa, ma diciamo che c'è un certo giornale locale che sono una decina d'anni più o meno che utilizza la stessa cosa un giorno sì e quell'altro la Gazzetta di Caserta, questo non voglio nemmeno nominare, nei confronti dei quali sono state fatte delle denunce ma già da tempo, quindi Non vorrei evitare di parlare, perché altrimenti dovrei fare la mia decisione. No, ma è chiaro, mi dica allora questa, se è vera, come ultima cosa, poi chiudiamo la vicenda, di questa intercettazione che riguarderebbe lei e suo fratello, nella quale lei direbbe a quel maresciallo, per il quale è indagato per calunnia, gli viene da sparargli col mitra. Guardi, allora, in un processo per calunnia Non ci sono intercettazioni, non ci possono essere. Il processo e gli atti sono a disposizione di chiunque li voglia vedere, a parte perché il processo è a dibattimento, quindi quindi lei l'ha detto o no questa frase al telefono? Non... Guardi, non esistono intercettazioni, quelle che c'erano nel processo di mio fratello furono 9 anni fa dichiarate inammissibili perché fatte senza autorizzazione. Io non le ho mai lette. Non le ha mai lette? Direi proprio di no. Però voglio dire, se questo... Non essere distrutte. No, se questo... Io non so se l'ho detto, non l'ho detto, se chi parlava a telefono, non sono mai state sottoposte a una perizia, non si sa... Cioè avrebbero dovuto essere distrutte, sarebbe interessante sapere come mai questo giornale è in possesso di... Ah, certo. Avrebbero dovuto essere distrutti 9 anni fa. Non erano utilizzabili, quindi andavano distrutte, però lei dice io non lo so, può darsi che non mi ricordo cosa ho detto, può darsi anche... Guardi, io non escludo nulla, io credo che parlando con un familiare, quando ci si trova magari con una bomba sotto casa o con... perché questa era la situazione dell'epoca, o con tua madre anziana costretta a scappare di casa di notte, o con i bambini costretti a lasciare la casa nel cuore della notte, si possa dire qualunque cosa. Io non ricordo di aver utilizzato queste parole mai, ma non lo escludo, credo che in un momento di rabbia ognuno possa dire anche delle cose vergognose in una conversazione che privata... fatta in situazioni particolari, non lo so, ma non lo so. No, ma è chiaro. Allora chiudiamo con Anna Maria da Torino, l'ultima ascoltatrice. Anna Maria, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì. Il mio intervento è sicuramente molto più superficiale di tutti quelli finora. No, dica perché. Dica, Anna Maria. Ma io mi chiedo, ma una persona che occupa una determinata posizione, che viene presa in considerazione da tanti, ma come può esprimersi in questo modo? Io voglio essere spiegato. Lo so, molti ci hanno scritto. E vabbè, è che dobbiamo condannarlo per l'uso della lingua, Anna Maria? No, per carità di Dio. No, lo so. Però lo so. Il giornalista è stato un po' impietoso quando ha detto vorrei essere spiegato. Fa scusi, lei vorrei, gliel'ha fatto ripetere. Io vorrei essere spiegato. Vabbè, Anna Maria, a lei ha dato fastidio l'utilizzo così, l'abuso della lingua italiana dell'ex sottosegretario Nicola Cosentino. Scusi, l'ho un po' sfumata, ma insomma abbiamo colto il senso del suo messaggio. E che devo chiudere, ringrazio Rosaria Capacchione, candidata per il PD in campagna, grazie ovviamente e in bocca al lupo per la campagna elettorale. Che dire, ci trovate su Twitter, Alino Milan, sono io, e un saluto da parte di tutti, ci ritroviamo domattina alle 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e gli astriti da politica.